fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E a Resto Radio Convento siamo tornati in onda, continuiamo a raccontare le storie dei nostri festeggiati in questo sabato sera, ormai sabato notte, Dinner and Dance, Convento di Ronato. Abbiamo qui una coppia di ragazze che non vorrei definire sorelle, cugine, ma che si assomigliano anche molto, Beh, un po' sì, guarda, vestite in nero, more, anche come lineamenti qualcosa c'è, invece no, si conoscono solo da un po'. 40 anni. Da addirittura da 40 anni, da 40 anni, quindi hanno superato la crisi dei 7, 14, 21, 28 e 35. Adesso dovranno affrontare quella dei 42. Già fatta? Già fatta. Già superata? Da 40, a perché vi conoscete da 43 anni? Da 40 anni, dai tempi della scuola materna. Però vedi, da 40 vuol dire che tra due anni avete la crisi dei 42 da passare. Quindi come l'affronterete? Cosa vi lega ancora dopo 40 anni d'amicizia? Qual è il segreto, il vostro segreto? È il rispetto reciproco, credo. Giusto, è importante, è importante. Ogni tanto divertirsi. Ogni tanto divertirsi, che ci vuole, che ci vuole sempre. Riuscite a fare viaggetto anche insieme? Sì. Brave, brave, vedi che 40 anni è importante. Brave, brave. Allora, come vi chiamate? Vai. Sabrina. Marica. Sabrina e Marica, venite da? Palazzolo. Palazzolo, benissimo, non siete le uniche, non siete le sole, perché so che questa sera festeggiate, come dire, con un gruppo un po' più allargato. Diteci un po'. È la nostra classe del nostro paese. Ok, 1900 quindi? 76. Oh, 76, ricorrenza, come dire, eccezionale o che si ripete da qualche anno? Da qualche anno. Riuscite a fare questa cena da un po' più o meno? Da quanti anni riuscite a organizzarla? Grazie a Marica, perché lei Lei è la mente. Sei l'organizzatrice. E allora, ritornando a 5-6 anni fa, cosa ti ha fatto venire, tra virgolette, l'idea di far partire questa rimpatriata? Cosa ti è passato per la testa? Perché dopo tanti anni mi sembrava bello potersi rivedere, raccontarsi un po' le nostre esperienze, dove eravamo vedi arrivati. Che però da un'idea così probabilmente bizzarra nel nulla è diventato un appuntamento fisso, sì, a cui immagino tutti siano legati e vogliano partecipare, nonostante, come diciamo sempre, le vite, gli impegni personali, la famiglia, immagino, sì, miei figli, mariti, eccetera eccetera. Comunque una serata con i propri amici di un tempo si riesce a ritagliare. E quanti siete stasera? Stasera 11 posti. Insomma, una dozzina non è comunque male. E riuscite anche a trovare altre occasioni per incontrarvi o avete questa durante l'anno? No, e questa. Basta? Questa. Dopo la classe solo questa. Dico proprio come gruppo, come gruppo. Una volta all'anno. E cosa vi ricordate dei, come dire, dei momenti insieme in classe? Avete qualche ricordo, qualche aneddoto particolare? No. Non lo so, no, non mi vengono. Ma anche perché noi in realtà in classe non siamo mai state, no, è vero. Ah no? Classe. Sezioni diverse. Vabbè, allora ognuno nella sua sezione, avete qualche aneddoto, qualche ricordo particolare che vi... Niente, probabilmente forse non lo vogliono dire, a quanto sembra. Vedi, a quanto sembra non vogliono dire. E allora no, entro io un po', come dire, a gamba tesa nelle vostre vite. C'è qualcuno che ne so, ha avuto una cottarella adolescenziale e poi l'ha portata avanti e ancora si conoscono e stanno insieme, magari, no? Della classe. Della classe no, della solo classe simpatie, no. Ok, no. Beh, ci sarà stato qualche incontro amoroso che però non è mai sfociato in... Sì, ci sono stati, ma non sono durati, niente. Niente, non è andata bene, di solito... Non sono ricordi. No, però funziona. Beh, gite ne avete fatte? Avete fatto qualche viaggetto? Tipo? La gita in terza media, siamo stati in Umbria, molto bella. Umbria. Alla famosa Porziuncola. Porziuncola, come dire, è un must delle gite, però l'Umbria è molto bella, è sempre bello scoprirla o riscoprirla se già ci si è stati. E altri viaggi ne avete fatti o solo quello? Con la classe. No, con la classe, a parte le chitarelle della scuola elementari. Sul Lago Maggiore. Sì. Lago Maggiore? A casa di Viso, tornare, ti ricordi? Chi è Viso? Casa di Viso. Che cos'è Casa di Viso? È un paese in montagna. Ah, ok, io penso che ho capito a Casa di Viso, no, infatti dicevo chi è Viso? Ah, a Casa di Viso, un paese in montagna. A fare cosa? E cosa avete fatto a casa di Viso? Era una gita scolastica, una gita scolastica. Si è vicino a Ponte di Legno. Ma cosa avete fatto? Cioè, giornata sulla neve o? No, no, no. Secondo me siamo andati a vedere dove sorge il fiume Oglio. Ah, dove sorge il fiume Oglio, quindi sì, geografica. No, beh, certo, sono sull'olio, quindi culturale e geografica addirittura. Vedi, vedi, non me l'aspettavo. Ok, volete mandare un messaggio ai vostri coscritti? Volete dir loro qualcosa? Vogliamo dire a quelli che non sono venuti che si sono persi una bellissima festa. Sono d'accordo? Confermo. Confermo. Sì. Ok, allora vi sentite anche di dare l'appuntamento all'anno prossimo davanti a questi microfoni. Quindi, detto che se lo dite davanti ai microfoni rimane, come dire, certificato che organizzerete anche l'anno prossimo? Marica, sicuramente. Assolutamente sì. Bene, bene. Alla prossima. Oh, grandi, grandi. Mi piace questa convinzione, questa certezza. Allora, appuntamento all'anno prossimo con loro e un grande saluto anche a tutti quelli che sono fuori e, come diceva Marica, a quelli che purtroppo non hanno voluto esserci. Peggio per voi. Esatto. Vai, grazie mille alle nostre rappresentanti di Palazzolo sull'Oglio e una buona fine festa. Ciao ragazze. Ciao a tutti. Ciao, grazie.